con Damiano Ricci di BIM Distribuzione per parlare del film Old Man and the Gun di David Lowry, in uscita in sala giovedì 20 dicembre. Damiano, ben trovato. Ben trovati a voi. Lo raccontiamo brevemente? Certo. Old Man and the Gun è un film che narra una storia vera, come abbiamo scritto anche nel poster, che è già una leggenda, nel senso è una storia che il pubblico americano e a maggior ragione il pubblico italiano non conosceva assolutamente. È la storia vera di quest'uomo chiamato Forrest Tucker, un ladro gentiluomo che ha compiuto più di 100 rapine negli Stati Uniti tra gli anni 70 e gli anni 80 ed è stato protagonista di più di 17 evasioni dal carcere senza mai sparare un colpo di pistola. Quindi un personaggio leggendario che David Lowery, che ha scritto anche la sceneggiatura del film, ha restituito al pubblico americano per narrare e celebrare un'epoca passata e romantica, e anche un modo, un approccio romantico sia al personaggio che al cinema stesso, cioè celebrare un cinema che non esiste più, un cinema che è affascinato dalla figura del bandito, dalla figura del criminale, senza però l'action del protagonista, diciamo, delle storie criminali degli ultimi anni. E quindi il film parla semplicemente della storia di quest'uomo, lo ritrae ormai sul viale del tramonto, diciamo così, all'età di quasi 80 anni, è un uomo che ha già vissuto gran parte della sua vita, ma che non riesce a staccarsi, diciamo, e non riesce a smettere di fare quello che ama di più, il suo lavoro di criminale. Sì. E a un certo punto, come in ogni bella storia del cinema, spunta una donna, questa donna è interpretata da Sissy Spacek. Quest'uomo, Forrest Tucker, vorrebbe cambiare la sua vita, oppure immaginiamo che vorrebbe cambiare la sua vita, ma la domanda è: riuscirà veramente a smettere di fare quello che ama di più oppure no? Quest'uomo è interpretato da un grandissimo attore hollywoodiano, Robert Redford, nell'ultima interpretazione della sua carriera. Damiano, una cura a partire dalla colonna sonora, nei costumi, nelle location, veramente notevole. Sì, sì, perché devo dire che se si è tanto parlato, io non parlerò ulteriormente del fatto che questo è l'ultima interpretazione di Robert Redford. Robert Redford ha dichiarato che con questo film chiuderà la sua gloriosa carriera d'attore. E se questo film ha un grande cast che conta, appunto, abbiamo detto Sissy Spacek, ma conta anche un poliziotto che non ho menzionato adesso quando ho parlato della storia, che a un certo punto si mette alle calcagna di questo ladro giurando che l'ultima cosa che avrebbe fatto nella sua vita sarebbe stata quella di acciuffarlo, e questo poliziotto è interpretato dal premio Oscar Casey Affleck. Se nel film ci sono anche grandi attori del calibro di Danny Glover e di Tom Waits, che oltre ad essere un grandissimo interprete musicale che è stato un grande attore, ce lo ricordiamo in film come America Oggi, oltre a queste cose di cui penso si stia parlando molto perché è un film molto atteso, un film di cui, insomma, la stampa ha già parlato, quello di cui non si parla abbastanza e che mi piacerebbe, appunto, di cui mi piacerebbe parlare qui è proprio il regista David Lowery. David Lowery ha dato al film una patina assolutamente fantastica, è riuscito a ricreare completamente, in maniera pedissequa ma assolutamente affascinante, l'ambientazione degli anni 70 in America. Il film scorre attraverso il respiro del road movie, perché scorre attraverso diverse location del sud degli Stati Uniti dove Forrest Tucker compie le sue rapine, e in ognuna di queste location David Lowery riesce a dare sia nel decoro, diciamo, nella scenografia, sia con i costumi, ma soprattutto attraverso una regia che ricalca in maniera calligrafica alcuni stilemi del cinema americano anni 70, da alcune soluzioni di Robert Altman, come dei bellissimi zoom in avanti o all'indietro che vanno a cogliere dal dettaglio poi l'ambiente il totale, diciamo, dove Redford compie le sue rapine, sia altre soluzioni stilistiche, addirittura con degli omaggi, delle citazioni al cinema di Godard, insomma, riesce con una regia assolutamente citazionista, ma che senza il peso, diciamo, del citazionismo, a ricreare un ambiente veramente meraviglioso e a riportarci agli anni 70, ma agli anni 70 americani come li ha narrati il grande cinema americano degli anni 70, da Sidney Lumet ad Altman, appunto. Quindi in questo senso il film è veramente, veramente gustoso. Ultima notazione sul regista, che ci tengo particolarmente perché sono diventato attraverso questo film un suo grande fan. È un regista che insomma ha già fatto altri film e forse non se ne è ancora sentito abbastanza, ma sono sicuro che è uno dei registi che faranno bene e lasceranno il segno anche nei film a venire. Questo regista ha fatto film completamente diversi. Ha cominciato con un film chiamato Senza Santi in Paradiso, che non credo neanche sia uscito al cinema, che si può vedere anche sulle piattaforme in DVD, insomma. E sempre con Casey Affleck e Rooney Mara, una storia praticamente, anche questa è una storia criminale, ma praticamente una grande tragedia criminale, per poi fare un film come Pete's Dragon, un film per ragazzi, chiamato in italiano il Drago Invisibile, per continuare con un film chiamato Storia di un Fantasma, anche questo inedito in Italia, con il protagonista Casey Affleck, che è semplicemente un fantasma che gira nella vita di una donna, anche in questo caso interpretata da Rooney Mara. E ora All Men and the Gun, veramente un grande regista poliedrico che sa mettere il suo stile al servizio delle storie e che ha una profonda cultura dell'immagine. Sì, un meccanismo così curato da parte del regista, che fornisce su un piatto d'argento la prova d'attore perfetta per la fine di una carriera. Assolutamente, io penso, da quello che ho letto sulla stampa internazionale italiana, che Robert Redford abbia assolutamente ponderato questa sua uscita di scena, perché l'ha fatta su un film che sembra essere fatto veramente al servizio della sua interpretazione e sembra essere proprio un omaggio alla sua persona. Molti critici, non ultimo Mereghetti ieri in un bellissimo articolo che ha scritto sul film, hanno accostato la figura di Forrest Tucker e alla dedizione e il sorriso e anche l'entusiasmo con cui compie le sue rapine a quel sorriso e quell'entusiasmo che hanno contraddistinto la carriera di Redford, che l'hanno portato, diciamo, da enfant prodige ad essere sempre uguale a se stesso, ma allo stesso tempo sempre diverso, e soprattutto un uomo, Robert Redford, e un personaggio, Forrest Tucker, contraddistinti da un profondissimo e bellissimo stile. Sono entrambi persone che hanno uno stile nel fare il loro lavoro, e penso che Robert Redford abbia appunto deciso di uscire di scena con questo film perché è un film che lo rappresenta pienamente, che, diciamo, ha un sottotesto che parla della sua carriera oltre che del personaggio. Damiano, in quante sale? Siamo 130 sale, in un periodo, insomma, nell'anno in cui tutti ci aspettiamo e speriamo che il pubblico vada massicciamente al cinema. Speriamo che gli spettatori possano scegliere questo film, perché è assolutamente una chicca da non perdere. Old Man and the Gun di David Lowery, in uscita in sala giovedì 20 dicembre. Un saluto e un ringraziamento a Damiano Ricci di BIM Distribuzione. Damiano, un saluto e a risentirci presto. Grazie a te, buon Natale a te e a tutti gli spettatori.